in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, in regia c'è Carmelo Lauricella. Vediamo insieme nella prossima mezz'ora le prime pagine dei quotidiani italiani e tutti gli approfondimenti che riusciremo a leggere in questo lasso di tempo. Grande spazio ovviamente oggi sulle prime pagine al raid americano e alla possibile ritorsione, vendetta iraniana, con varie analisi da diversi punti di vista e poi varie altre questioni, a partire dalla questione Gregoretti, la difesa dell'ex ministro Salvini, e poi ancora gli attacchi sulla Croce Rossa, un po' tutto sulle prime pagine dei quotidiani, ciascuno ha fatto la sua scelta. Cominciamo da quella fatta da Sole 24 Ore oggi, l'apertura ovviamente, come dicevamo, scontro USA-Iran, vola il petrolio, ci sono poi gli approfondimenti e l'articolo di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, proprio su questo punto della energia, del petrolio. Dalla prima del Sole 24 Ore anche nella foto notizia l'export, il grande balzo delle pelli di Firenze, bene anche la provincia di Latina grazie alla farmaceutica, quindi qui si vede un po' come va l'Italia all'estero. Sempre su Sole 24 Ore, FCA, PSA, Agnelli e Peugeot studiano un patto per blindare il controllo. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, il titolo di apertura: Raid Stati Uniti, Raid USA, l'Iran ora vendetta, ucciso il potente generale Soleimani, il presidente americano dice progettava attentati. E le analisi che partono dalla prima pagina del Corriere sono di Guido Olimpio sulle relazioni pericolose, così è il titolo. La reazione di Teheran all'uccisione di Soleimani è classica, ci vendicheremo nel momento e nel luogo più opportuni. E poi la analisi da Washington, il calcolo di Trump, articolo di Massimo Gaggi. Dalla prima del Corriere della Sera leggiamo anche le 7 mail di Salvini, il governo sapeva, appunto il caso è quello della Gregoretti, la nave Gregoretti e la difesa dell'ex ministro, e qui è Fiorenza Sarzanini a scriverne. Il Movimento 5 Stelle, inteso vertice per decidere su 8 espulsioni, Di Battista mi farò sentire, altri due lasciano i 5 Stelle. Pierluigi Battista invece sul Corriere oggi ci parla del paese in cui si spara sulla Croce Rossa. Da Milano a Napoli gli incredibili attacchi ad ambulanze e mezzi dei pompieri. Andiamo alla Stampa. Trump a un passo dalla guerra con l'Iran. Il presidente americano Soleimani andava fermato. Teheran risponde vendetta. L'America prepari molte bare. L'Unione Europea e l'Italia basta ritorsioni. Il raid di Baghdad, ucciso con i droni il braccio destro militare di Khamenei. Washington invia 3.500 soldati. Salgono petrolio e oro. Questo è il riassunto della situazione fatto dalla Stampa. La fotonotizia è dedicata ai manifestanti a Teheran con la foto di Soleimani, il comandante dei Pasdaran, era il terzo uomo nella gerarchia dell'Iran dopo Ali Khamenei e Hassan Rouhani. Centropagina, Gregoretti, la difesa di Salvini contro Conte, il premier no allo sbarco, lo decise da solo. Nei documenti presentati dal capo della Lega, le mail inviate a Palazzo Chigi. 40 anni fa l'omicidio Mattarella, ricorda poi la Stampa, la Sicilia con le carte in regola. Tra l'altro scritto da Giuseppe Pignatone. Andiamo alla Repubblica. La Repubblica, anche qui ovviamente ora il mondo ha paura. Trump fa uccidere l'uomo forte di Teheran. L'Iran dice vendetta. Il generale Soleimani colpito da droni a Baghdad preparava attacchi agli Stati Uniti. Ira degli sciiti dall'Iraq al Libano. Il Pentagono schiera truppe in Medio Oriente. E sostanzialmente quasi tutte le analisi che partono dalla prima di Repubblica sono dedicate a questo caso. C'è poi un approfondimento però di tutt'altro taglio, di tutt'altro argomento. Il veganesimo è una religione per legge. La sentenza è stata data a Londra. Il veganesimo, scrive Marino Niola, è come un credo religioso o filosofico, o come tale non può essere discriminato, e come tale non può essere discriminato. Lo ha stabilito il tribunale inglese di Norwich accogliendo il ricorso di un impiegato licenziato a causa del suo veganesimo etico. Il Messaggero: Stati Uniti, Iran, 20 di guerra, un drone americano uccide il generale Soleimani, fedelissimo di Khamenei. Trump dice studiava nuovi attacchi, dovevamo farlo prima. Inviati 3.500 militari. Poi, sempre dal Messaggero, atto di forza con rischi di escalation, questo è il commento di Alessandro Orsini. E invece sulla questione 5 Stelle, altri due deputati lasciano il movimento e il titolo è Frana Movimento 5 Stelle, la maggioranza sul filo, reddito record, la sorpresa Conte. E qui appunto unisce i due temi dei redditi dei politici e della frana dei 5 Stelle in questo titolo. Il Giornale invece a tutta pagina titola ucciso il boia iraniano, blitz statunitense e il governo tentenna. E poi spiega Trump elimina il generale Soleimani, numero due del regime, Teheran minaccia ci vendicheremo, Conte e Di Maio fanno i conigli e non prendono posizione. Al centro pagina, in scala enorme, il tweet di Donald Trump, quello in cui ha messo la bandiera americana, questo mentre stava partendo l'attacco militare in Iraq. Dalla prima del Giornale leggiamo anche i giallorossi mettono a rischio i nostri soldati, così Gian Michele Sin. Presidente Mattarella, salvaci tu, inizia all'indomani dell'uccisione di Qassem Soleimani, l'Italia si ritrova al centro di una bufera politico-militare che minaccia migliaia di nostri militari dispiegati tra Asia, Medio Oriente e Nord Africa. Una bufera in cui, causa debolezze e divisioni dell'esecutivo, ci muoviamo a tentoni senza una politica estera incanalata in un solido... vediamo se riesco a trovare immediatamente l'articolo, in un solido quadro di alleanze. Così poi Gian Michele Sina, pagina 3, prosegue un lungo articolo a tutta pagina. Il Fatto Quotidiano sceglie una foto notizia di apertura che non riguarda la questione Iran-Stati Uniti, ma c'è una fotografia di Matteo Salvini, super partito pro prescrizione a 56 inquisiti. Nei primi due anni il Parlamento ha aumentato la quota di indagati, imputati e condannati. Appunto c'è una fotografia di Salvini, poi ancora Silvio Berlusconi, Zingaretti, Meloni e Renzi, Italia Viva, e si fanno i conti numerici appunto sugli inquisiti per ciascun partito. L'apertura per quel che riguarda il Fatto Quotidiano e la questione irachena: Trump uccide Soleimani, l'Iran minaccia vendetta, molto secco, 20 di guerra, Teheran, Yankee, preparate le bare. La Nazione, attacco USA all'Iran, incubo guerra, ucciso Soleimani, l'uomo forte del regime, Trump esulta, ma Teheran dice ci vendicheremo e intanto il petrolio vola. Al centro pagina La Nazione, quotidiano nazionale, sceglie di inserire tutte le fotografie, diciamo, di uomini politici con i loro redditi che sono stati pubblicati online. Berlusconi resta il paperone, Conte al top nel governo, Amendola fanalino di coda. Su Avvenire, USA-Iran, miccia accesa, il generale iraniano Soleimani ucciso da un drone americano a Baghdad, preparava altri attentati, questa è l'accusa degli Stati Uniti, Teheran in rivolta, promette vendetta a tempo debito, Europa e Italia in allarme, serve moderazione. Centropagina, su Avvenire, Papa, eutanasia, mai, la vita è indisponibile, questo è il titolo, verso la giornata del malato per il 2020, l'articolo di Francesco Ognibene, 4 interventi in poco più di 3 mesi, tutti più che espliciti sui temi, oggi al centro del dibattito italiano e globale sul fine vita, il Papa non si è certo risparmiato e ieri è tornato a occuparsene nel messaggio per la giornata mondiale del malato 2020 che ricorre l'11 di febbraio. Su Libero, italiani spendaccioni, povertà immaginaria, ogni cittadino ha sborsato 547 euro fra regali di Natale e acquisti scontati, il prossimo politico che si lamenta per l'indigenza vada in un centro commerciale. Il 2019 è stato davvero bellissimo per Conte, reddito su di 700.000 euro, così sceglie Libero di aprire questa giornata. Sulla sua prima pagina... andiamo alla verità. Se al governo ci sono i buoni, i morti in mare non contano. Secondo le ONG, da ottobre 2019 sono centinaia i decessi di disperati annegati sulle rotte del Mediterraneo. Ma queste tragedie, giustamente, non vengono addossate alla Lamorgese e quindi non interessano più. Così legge la situazione La Verità, che poi aggiunge sempre sulla sua prima pagina il 2018 d'oro di Giuseppi e dell'ex collega Renzi, 750.000 euro in più a testa, sempre riferito ai loro redditi. Il Manifesto, tutta pagina, fotonotizia delle manifestazioni a Teheran, il titolo è L'incendio. Nella notte un attacco di droni ordinato da Trump uccide a Baghdad il generale iraniano Soleimani, numero 2 di Teheran. Il Medio Oriente sul precipizio di una nuova guerra. Joe Biden, dinamite su una polveriera. L'ONU condanna, violato il diritto internazionale. Netanyahu applaude con Salvini. L'Italia con Di Maio, la priorità è la lotta all'ISIS. E sul Manifesto ritroveremo Alberto Negri, che ben conosciamo, collega che fu a Sole 24 Ore per lunghi anni. Il caos creativo è il titolo del suo articolo, che poi andremo senz'altro a leggere, almeno per quanto possibile nei tempi che abbiamo. Il secolo XIX, attacco di Trump all'Iran, Teheran prepara le bare, Teheran ammonisce, aperte le virgolette, prepara le bare. I droni uccidono il potente generale Soleimani, pianificava di colpirci. Khamenei annuncia una dura vendetta. L'UE e l'Italia, basta ritorsioni. E poi secolo XIX, come sempre si concentra su questioni regionali, cantieri e strettoie, la mappa degli ostacoli sulle autostrade liguri. C'è un approfondimento sia sul secolo XIX, sia ovviamente sulla Stampa, poiché ormai collegati, e anche quello è un tema che approfondiremo. Ma iniziamo dal Sole 24 Ore sullo scontro Stati Uniti-Iran. Ugo Tramballi, l'azzardo americano, eccolo qua. Trump ha acceso la miccia della polveriera, così si intitola l'articolo. Analizzando gli avvenimenti con realismo, il passo successivo è il cinismo, scrive Tramballi. Non c'era obiettivo da colpire più evidente di Qassem Soleimani, l'uomo che da anni interpretava le ambizioni geopolitiche dell'Iran, che sosteneva il suo programma nucleare, che finanziava e armava Hezbollah libanese, difendeva il regime siriano, consolidava l'influenza di Teheran sull'Iraq. Ma eliminare un nemico così importante, scrive Tramballi, affrontandone le conseguenze, ha senso se l'amministrazione americana intende restare in Medio Oriente, continuando a farne il centro di gravità della sua potenza globale. Invece Donald Trump, che senza consultare i presidenti repubblicano e democratico delle due Camere ha ordinato l'uccisione di Soleimani, lo dice il Pentagono, aveva ripetutamente annunciato di voler uscire dalle guerre senza fine di quella regione. Qualunque sarà il risultato di questa azione, realisticamente concepibile ma moralmente inaccettabile, Donald Trump mostra una volta di più i suoi due lati oscuri. L'estemporaneità delle decisioni che prende, l'assenza di consultazione degli esperti prima di agire. In politica estera queste abitudini possono fare danni incalcolabili. Uccidere Soleimani, ha commentato l'ex vicepresidente candidato democratico Joe Biden, è stato come buttare un candelotto di dinamite in una polveriera. Fino a ieri Stati Uniti e Iran si erano attenuti alle regole dei conflitti a bassa intensità, parole grosse, azioni al di sotto di un'implicita linea rossa e quelle al di sopra eseguite per procura dagli alleati, le milizie pro-iraniane o l'aviazione israeliana. Gli iraniani avevano danneggiato le petroliere nel Golfo, abbattuto un drone americano, bombardato gli impianti petroliferi sauditi, dimostrando un certo nervosismo. A Donald Trump bastavano le sanzioni economiche e l'affondamento dell'accordo sul nucleare iraniano per tenerli sulle spine. Quella specie di guerra fredda del Golfo aveva due pilastri. Trump non avrebbe mai fatto un'altra guerra in Medio Oriente, meno che mai in un anno elettorale. L'economia iraniana, in grave crisi, non avrebbe potuto sostenere un conflitto convenzionale. Teheran contava di prendere tempo fino a martedì 3 novembre di quest'anno, quando gli americani voteranno, nella speranza piuttosto condivisa nel mondo, che gli elettori americani scelgano un altro presidente. E poi prosegue l'articolo di Ugo Tramballi. Io andrei rapidamente da Sole 24 Ore ad ex Sole 24 Ore a leggervi qualche passaggio di ciò che scrive Alberto Negri. sul Manifesto. Il nuovo anno americano si inaugura con un altro sconcertante capitolo della destabilizzazione permanente del Medio Oriente voluta da Washington. Altro che ritiro degli Stati Uniti dalla regione, colpire al cuore il regime iraniano e assestare una mazzata all'apparato di sicurezza sciita in Iraq. Quindi entrambi vanno a segnare, diciamo, la dissonanza tra quello che aveva detto Donald Trump e quello che ha poi fatto ieri. Il caos creativo americano colpisce ancora, scrive Alberto Negri, ma a questo punto dobbiamo dare la parola al traffico e torniamo tra pochissimo. In primo piano. Allora, dicevo, il caos creativo americano colpisce ancora, Alberto Negri sul Manifesto. Siamo nel pieno, scrive Negri, di quel caos creativo, anche questa volta dalle conseguenze imponderabili che gli Stati Uniti perseguono da circa un ventennio con criminale determinazione nel nostro cortile di casa. Una decisione che rientra perfettamente nella strategia americana di sconvolgere gli equilibri precari del Medio Oriente, iniziata con l'invasione dell'Iraq nel 2003, continuata con i raid in Libia del 2011 contro Gheddafi insieme a Francia e Gran Bretagna e proseguita con la guerra per procura in Siria contro Assad, un conflitto che ha visto le monarchie del Golfo e la Turchia impegnate insieme ai jihadisti a contrastare prima di tutto l'influenza iraniana e poi anche quella russa, il tutto con il consenso degli Stati Uniti. L'articolo poi è molto lungo sul Manifesto, come dicevo, Alberto Negri. Su molti quotidiani ci si domanda, ci si interroga su quello che potrebbe accadere. Adesso sul Corriere della Sera leggiamo qualche passaggio di dove e come risponderanno, l'articolo di Davide Frattini. Allora, si parte da ovviamente una descrizione di quello che è accaduto, di dove era Benjamin Netanyahu, di come gli israeliani si siano almeno in una prima fase tenuti fuori da tutto questo. Netanyahu ha continuato la sua visita ad Atene, non ha commentato. Questo tutto nella prima parte dell'articolo, poi si aggiunge appunto al dove e come risponderanno gli iraniani. Allora, i soldati americani è ovvio che siano al massimo livello di allerta, in particolare a Baghdad. Ai civili statunitensi, scrive Frattini, è stato ordinato di lasciare l'Iraq. La paura riguarda anche le ambasciate e i diplomatici. Come prima mossa, gli iraniani, sono convinti gli analisti, cercheranno di commemorare Soleimani con un attacco sullo stesso campo di battaglia dove è caduto. Nel mirino sono considerati anche il piccolo contingente di forze speciali arroccate nel deserto siriano e i militari che non hanno mai lasciato la guerra senza fine in Afghanistan. Gli ufficiali israeliani hanno poi fatto arrivare un messaggio attraverso i mediatori egiziani. L'avvertimento è per i capi di Hamas e della Jihad islamica che spadroneggiano nella striscia di Gaza. Non immischiatevi, il messaggio. La Jihad è il gruppo che ha il legame più forte con gli Ayatollah di Teheran e potrebbe ricevere la direttiva di attaccare il principale alleato degli Stati Uniti nella regione con il lancio di razzi sulle città. Il fronte nord è ancora più complesso. Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, ha pianto l'amico Soleimani in diretta televisiva e contro Israele ha già combattuto per 34 giorni nell'estate di 12 anni fa. I suoi miliziani si muovono anche in Siria, assieme ad altri gruppi paramilitari sciiti. Gli iraniani potrebbero scegliere di rispondere usando i fedelissimi in Libano o colpendo dalle montagne attorno al Golan, stessa modalità operativa. Il raid su commissione se i gruppi armati Houthi bersagliassero i sauditi in Yemen. E poi c'è tutta la questione della protezione dei pozzi petroliferi. L'Arabia Saudita e il Kuwait, con loro gli americani, temono che tra gli obiettivi ci siano i pozzi petroliferi e il tentativo di creare una crisi economica globale. Così Davide Frattini sul Corriere della Sera, alcuni passaggi del suo articolo. Dicevo, molti si domandano del futuro. Ecco, poi dopo c'è su Repubblica: che cosa cambia nel mondo dopo questo attacco? Israele, Cina, Turchia, Russia, chi vince, chi teme il peggio? Qui c'è proprio un piccolo riassunto schematico, no? Cina, per Pechino la priorità sono i suoi yuan, autore Filippo Santelli, Turchia, Marco Ansaldo ne scrive, di improvviso Erdogan diventa prudente, Rosalba Castelletti scrive di Russia e ora si spera in Putin per frenare la crisi, questo è il titolo. Arabia Saudita, Riad ha solo da perdere dalla vendetta iraniana, scrive Francesca Cafferri. Di Israele scrive Vincenzo Nigro, Bibi rientra dalla Grecia e si prepara a ritorsioni, l'abbiamo sentito anche poco fa nell'articolo di Frattini. Unione Europea, Bruxelles teme la fine dell'intesa sul nucleare, Alberto D'Argenio ne scrive appunto su Repubblica. Se riesco a individuare, no, rapidamente no, però ecco, sui giornali viene anche ricordato come l'Italia sia stata tenuta fuori un po' dal giro purtroppo di telefonate fatto da Washington dopo questo attacco, e questo certo non è un buon segno, e considerata anche la nostra così coinvolgimento e vicinanza all'area in cui si svolgono tutte queste, si svolge tutto questo che vi abbiamo appena descritto. Ma volendo cambiare argomento, negli ultimi minuti a nostra disposizione, io passerei a segnalarvi. Allora, dal Corriere della Sera l'intervista sulla questione autostrade a Roberto Tomasi, che è l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Intervista di Fabio Savelli, pronti a trattare su compensazioni e investimenti. Il manager dice: senza concessione c'è il rischio fallimento. Leggiamo alcuni passaggi particolarmente significativi. Vogliamo realizzare investimenti per 13 miliardi di euro nei 18 anni rimasti della concessione, a patto che, dice Tomasi, a patto che, interviene l'intervistatore Savelli, a patto che non vi revochino la concessione, ma comprenderà che abbiamo ancora negli occhi il collasso del Ponte Morandi e i report falsificati sulla manutenzione di alcuni viadotti e quei lastroni di cemento appena crollati dal soffitto di un tunnel sulla A26. Comprendo la differenza, risponde Tomasi, è innegabile che dobbiamo fare uno sforzo straordinario per riconquistare la fiducia degli italiani. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per realizzare una profonda discontinuità su molti piani. Abbiamo attuato una forte rotazione del management, abbiamo rivoluzionato i sistemi dei controlli affidando a società terze le verifiche sullo stato dei viadotti e delle gallerie. Abbiamo lanciato un piano di investimenti in manutenzione da 500 milioni di euro, con una forte accelerazione degli interventi, triplicando le risorse investite. A gennaio presenteremo il piano industriale 2020-2023, che comprenderà anche un focus particolare su ricerca e sviluppo, digitalizzazione e nuovi modelli manageriali. Sì. Tutto questo, e poi aggiunge, serve un accordo che coniughi l'interesse pubblico, aggiunge Roberto Tomasi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, un accordo che coniughi l'interesse pubblico, i diritti di chi fa impresa e le regole dello Stato di diritto. Un accordo di questo tipo è possibile e doveroso nell'interesse dei 7.000 lavoratori, degli stakeholders e di tutti gli italiani. Alt, dice Fabio Savelli, con il subentro dell'ANAS tutte le maestranze verrebbero ricollocate in un'azienda pubblica. La risposta di Tomasi è una visione semplicistica. Con la revoca e un indennizzo ridotto rischiamo il fallimento, visto che abbiamo linee di credito aperte per 10,5 miliardi, con gravi conseguenze anche per decine di migliaia di risparmiatori, oltre che per 7.000 dipendenti diretti e per i lavoratori nell'indotto. E diciamo che non le manda a dire. A proposito di autostrade, vi dicevo del secolo XIX e della stampa che si concentrano sui 20 cantieri sulle autostrade liguri. Il viaggio verso il mare è un'odissea. Il reportage è di Niccolò Zancan, inviato a Masone, quindi siamo a Genova. È un crollo fisiologico. Fisiologico? Certo, dopo 40 anni senza manutenzione, questo tipo di galleria crea problemi. Non c'è il sistema di impermeabilizzazione, l'acqua filtra dalla montagna, basta guardare le pareti per rendersi conto. Qualche cedimento qua e là purtroppo è naturale. È con le parole del geometra Gabriele Piccioni ben piantate nella testa che bisogna mettersi in viaggio da Torino verso Genova, perché il geometra Piccioni ha lavorato per costruire la galleria Bertè della A26, quella dal cui soffitto si sono staccate 2,5 tonnellate di cemento, ed è proprio da lui che vogliamo fermarci lungo la strada. Vive ancora dove nel 1973 fu inaugurato il cantiere per la costruzione di quel tratto di autostrada. Per arrivare al mare ormai serve consapevolezza, scrive Zancan. Ci sono 20 lavori in corso disseminati fra la A10, la A26, la A26 e la A12. Sono restringimenti, passaggi obbligati sulla carreggiata opposta, rallentamenti su viadotti ammalorati, sono frane, toppe, misure straordinarie di manutenzione. Questo significa che per fare un tratto di 21 chilometri tra Masone e Arenzano, ad esempio, potrebbero servire anche 4 ore. Così è successo il 27 dicembre 2019, ma i lavori in corso sono soltanto ciò che si sa già sullo stato del disastro. E questa è la situazione per quello che riguarda appunto le autostrade. Allora, una segnalazione di tutt'altro genere, una riflessione in chiusura, la facciamo grazie alle pagine del Manifesto. Nelle cronache del Manifesto troviamo questo articolo: non erano sposati, il comune proibisce di seppellirli insieme. È successo ad Alba Adriatica, la coppia di ultra ottantenni aveva convissuto per 30 anni. Allora, ne scrive, non riusciamo a dirvi l'autore, dunque, dov'è, eccolo qua, Giovanni Sgardi. Alba Adriatica, diritti civili nella tomba, nemmeno, perché aver vissuto una vita insieme senza essere sposati non dà diritto a una coppia di fatto di riposare fianco a fianco per l'eternità. Così perlomeno vuole un vecchio regolamento della polizia cimiteriale di Alba Adriatica, Riviera di Teramo, una norma che tutela la pubblica decenza, impedendo sia mai l'infinito abbraccio di cuori votati all'amore senza il suggello del matrimonio. Non se ne sapeva nulla, o quantomeno non si era mai verificato un caso degno di cronaca, vista la bizzarria della scartoffia, fino a quando lo scorso 29 dicembre è morta Maria Angelini alla bella età di 87 anni. Maria è stata per una vita accanto a Dante Caponi, il suo grande amore, e così il figlio di lui, per un omaggio postumo alla coppia, ha pensato di tumulare Dante e Maria insieme. Ma niente. Così i costumi del secolo breve, almeno prima della metà, non permettevano e nessuno si era preso la briga di cambiare quella norma diventata bislacca. E ora, mettendo da una parte dolore e pudore, Daniele, ex consigliere comunale di Alba, il figlio di Dante, accusa: «Voglio denunciare il mio massimo sconcerto verso un regolamento cimiteriale che solo Alba Adriatica applica. Nel 1988 ho perso mia madre. Dopo un paio di anni mio padre ha avuto la fortuna di incontrare Maria Angelini. Lei è stata una bravissima donna che ha dato di nuovo un sorriso a mio padre e nei nostri confronti ha avuto sempre un affetto amorevole. Per me è stata come una mamma. Nei numerosi colloqui di mio padre con me e mio fratello Dino c'è stata sempre la raccomandazione che se fosse morto lui, noi avremmo dovuto prenderci cura di Maria e trovarle posto vicino alla sua tomba nella cappella di famiglia. Ma appunto, come dicevamo, ciò non è stato possibile per l'applicazione di un vecchio regolamento comunale. È tutto, ora diamo la linea a GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.